Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti anche per questa giornata di lunedì 14 ottobre. La settimana riprende così come ci eravamo lasciati, con un mondo impotente che vede l'aggressione vigliacca e fascista della Turchia ai danni del popolo curdo, ma di questo parleremo ovviamente. Per adesso invece cominciamo con Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nell'appuntamento del notiziario in genere a cura di Lena Maggiaro, con la voce al microfono di Barbara Schiavulli. I titoli di oggi. A Timor Est di genere si combatte in radio. Guerra in Siria, uccise Evrin Khalaf. Il Consiglio delle donne curde della Siria del Nord e dell'Est fa un appello a tutte le donne del mondo. Collaborazione tra il Consiglio d'Europa e Federazione Russa contro la violenza sulle donne. Uganda, il governo annuncia un nuovo Kill the Gay Spill, pena di morte per atti omosessuali gravi. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. L'orone, se te domine la fura, a forza un eo. A forza ularan l'oronne, la comuna na roman fura. In un caldo mercoledì pomeriggio, alla periferia di Dili, un gruppo di adolescenti e giovani adulti si raduna attorno a una radio. Seduti insieme in silenzio, ascoltano. Alcuni prendono appunti, seri. Alcuni osservano il tavolo degli spuntini. Altri guardano in lontananza. Sono sintonizzati su Teki Toki di Radio Libertade, una trasmissione settimanale che prende di mira le percentuali devastanti di violenza intime fra partner e a Timor Est. Lo racconta Laura McDowell su The Asia Foundation. Trasmesso grazie a una rete di stazioni radio locali, Teki Toki si rivolge ai giovani dai 15 ai 25 anni. L'episodio di cui leggiamo parla di relazioni e infedeltà, con un ospite in studio che risponde in diretta alle domande del pubblico. Il gruppo di giovani ascoltatori è uno dei 12 che si incontrano ogni settimana in tutto il paese, ognuno con un facilitatore per guidare e documentare le vivaci discussioni post-spettacolo sui ruoli e le relazioni di potere. Il sostegno al progetto radiofonico proviene dal programma Nebilan dalla Fondazione Asia, un partenariato di 8 anni tra governi di Timor Est e dell'Australia per porre fine alla violenza contro le donne. Il progetto radiofonico riceve anche il sostegno dalla Società Tedesca per la Cooperazione Internazionale, GIZ. Teki Toki affronta il problema, certo non facile, in modo olistico, afferma la giornalista di Radio La Libertade, Felicia Maia. La ricerca di Nabilan dimostra che il 59% delle donne a Timor Est dai 15 ai 49 anni abbiano subito violenza fisica o sessuale per mano dei partner. Ma invece di parlare direttamente di violenza contro le donne, spiega Maia, ci concentriamo sui progetti e le esperienze che possono portare alla violenza. Cerchiamo di fornire ai giovani e alle giovani gli strumenti per riconoscere situazioni malsane e trovare un modo migliore. Amore e relazioni, lavoro e denaro, istruzione e formazione, vita familiare e genitorialità e attività ricreative sono questi i temi di cui si parla. Gli episodi di Teki Toki di solito includono storie, interviste per strada, un ospite speciale e le chiamate degli ascoltatori. Lo show affronta convinzioni e situazioni che possono condurre alla violenza, mancanza di opportunità socio-economiche, noia, diritti, stereotipi e ampia accettazione della violenza come forma di risoluzione delle controversie. I nostri show sull'amore sono molto popolari, i giovani sono davvero interessati a imparare a risolvere le situazioni di relazione, afferma Felicia Maia. Con l'elevata disoccupazione giovanile di Timor, aggiunge, anche i programmi su lavoro e formazione sono popolari. شهرم کیه چی کر یو خلکی کیه نه جندرم و نه پس دره نه اسکر و نه بیکره کی دزنی یرم کیه چی کر یو خلکی کیه نه جندرم. تری چیویلی uccisi a sangue freddo dai miliziani filoturchi, anche un'esponente politica curda, nota per le sue lotte a favore dei diritti delle donne. I civili sono stati uccisi nella giornata di sabato a colpi d'arma da fuoco su un'autostrada dopo essere stati prelevati dalle loro auto da milizie sostenute dalla Turchia che avevano attraversato il confine siriano. I 9 civili sono stati giustiziati in diversi momenti a sud della città di Tel Abyad, dice l'osservatore siriano per i diritti umani. Tra le vittime ci sono anche la politica curda Evrin Khalaf e il suo autista. Appassionata, coraggiosa, in grado di far comprendere le ragioni della causa curda agli inviati di paesi stranieri, Evrin Khalaf, 35 anni, la co-segretaria del Partito per il Futuro della Siria, giustiziata in Siria da mercenari sostenuti da Ankara, secondo le forze democratiche siriane. È descritta da chi la conosceva come una sorta di ministra degli esteri del Rojava. Di recente, si legge sull'AGI, aveva guidato un forum tribale delle donne, queste ultime soggetto cruciale per lei di una possibile transizione democratica che conduca a una Siria inclusiva e rispettosa dei diritti delle minoranze e fortemente decentralizzata rispetto all'impostazione baathista. Al momento della sua fondazione, avvenuta il 27 marzo 2018, il Partito per il Futuro della Siria affermò tra i suoi principi la laicità dello Stato, una Siria multidentitaria, la sua rinuncia alla violenza in favore di una lotta pacifica per la risoluzione delle controversie, l'uguaglianza tra uomini e donne e il rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 2254, secondo cui tutte le fazioni del popolo siriano dovrebbero essere rappresentate nel processo politico, compresa la stesura di una nuova Costituzione. Il Consiglio delle donne curde della Siria Nord e dell'Est fa appello a tutte le donne del mondo contro l'offensiva della Turchia nella regione attraverso una lettera aperta. La riportiamo anche noi integralmente. Come donne di varie culture e fedi delle terre antiche della Mesopotamia, vi mandiamo i più calorosi saluti. Vi stiamo scrivendo nel bel mezzo della guerra nella Siria del Nord-Est, forzata dallo Stato turco nella nostra terra natale. Stiamo resistendo da 3 giorni sotto i bombardamenti degli aerei da combattimento e dei carro armati turchi. Abbiamo assistito a come le madri nei loro quartieri sono prese di mira dai bombardamenti quando escono di casa per prendere il pane per le loro famiglie. Abbiamo visto come l'esplosione di una granata NATO ha ridotto a brandelli la gamba di Sara, 7 anni, e ha ucciso suo fratello Muhammad, di 12 anni. Stiamo assistendo a come quartieri e chiese cristiane vengono bombardate e a come i nostri fratelli e sorelle cristiani, cui antenati erano sopravvissuti al genocidio del 1915, vengono adesso uccisi dall'esercito del nuovo impero ottomano di Erdogan. 2 anni fa abbiamo assistito allo Stato turco che ha costruito un muro di confine lungo 620 chilometri attraverso fondi europei e ONU per rafforzare la divisione del nostro paese e per impedire a molti rifugiati di raggiungere l'Europa. Adesso stiamo assistendo alla rimozione di parti del muro da parte dei carri armati, di soldati dello Stato turco e jihadisti per invadere le nostre città e i nostri villaggi. Stiamo assistendo ad attacchi militari, stiamo assistendo a come quartieri, villaggi, scuole, ospedali, il patrimonio culturale dei curdi e degli yazidi, degli arabi, dei siriaci, degli armeni, dei ceceni, dei circassi e dei turcomani e di altre culture che vivono qui comunitariamente vengono presi di mira dagli attacchi aerei e dal fuoco dell'artiglieria. Stiamo assistendo a come migliaia di famiglie sono costrette a fuggire dalle loro case per cercare rifugio senza avere un luogo sicuro dove andare. Oltre a questo, stiamo assistendo a nuovi attacchi di squadroni di assassini di ISIS in città come Raqqa, che era stata liberata dal terrore del regime dello Stato Islamico 2 anni fa, con una lotta comune della nostra gente. ancora una volta, stiamo assistendo ad attacchi congiunti dell'esercito turco e dei loro mercenari jihadisti contro Serekani, Giresipi e Kobane. Questi sono solo alcuni degli incidenti che abbiamo affrontato da quando Erdogan ha dichiarato guerra il 9 ottobre 2019. Mentre stiamo assistendo al primo passo dell'attuazione dell'operazione di pulizia etnica genocidia della Turchia, stiamo assistendo anche alla eroica resistenza delle donne, degli uomini e dei giovani che alzano la loro voce, difendono la loro terra e la loro dignità. Per 3 giorni i combattenti delle forze siriane democratiche insieme allo YPG e allo JPI hanno combattuto con successo in prima fila per impedire l'invasione turca e dei massacri. Donne e uomini di tutte le età sono parte di tutti gli ambiti di questa resistenza per difendere l'umanità, le acquisizioni e i valori della rivoluzione delle donne in Rojava. Come donne siamo determinate a combattere fino a quando otterremo la vittoria della pace, della libertà e della giustizia. Per ottenere il nostro obiettivo contiamo sulla solidarietà internazionale e la lotta comune di tutte le donne e gente che ama la libertà. Chiediamo la fine dell'invasione e dell'occupazione della Turchia nella Siria del Nord, l'istituzione di una no-fly zone per le proteste della vita della popolazione nella Siria del Nord-Est, prevenire ulteriori crimini di guerra e la pulizia etnica da parte delle forze armate turche, garantire la condanna di tutti i criminali di guerra secondo il diritto internazionale, fermare la vendita di armi alla Turchia, attuare sanzioni economiche e politiche contro la Turchia, adottare provvedimenti immediati per una soluzione della crisi politica in Siria con la partecipazione e la rappresentanza di tutte le differenti comunità nazionali, culturali, religiose in Siria. No, I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. Il Consiglio d'Europa e la Federazione Russa stanno lavorando su una futura cooperazione nel campo della violenza contro le donne e della violenza domestica. Claudia Luciani, direttrice di Dignità Umana, Uguaglianza e Governance, e Marta Becerra, a capo dell'Unità per i Progetti di Capacità Building e Cooperazione, si sono riunite a Mosca nella Federazione Russa per discutere della continuazione della cooperazione congiunta nell'area della violenza contro le donne e della violenza domestica. Il Consiglio d'Europa, si legge in una nota, sta attualmente collaborando con la Federazione Russa per attuare la sua strategia di azione nazionale per le donne 2017-2022. Questo lavoro è condotto nell'ambito di un progetto attuato dal Consiglio d'Europa, dal Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale, dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani della Federazione Russa e dal Ministero degli Affari Esteri. Il progetto ha durata di 18 mesi, da novembre 2018 a maggio 2020. Dell'Uganda ha annunciato nei giorni scorsi un progetto di legge che darebbe in determinati casi la pena di morte alle persone omosessuali, spiegando che sarebbe un deterrente al proliferare dei rapporti contro natura nel paese. Lo racconta gaynews.it. Il tentativo è quello di riportare in auge un disegno di legge del 2009, opera di David Bahati e noto come Kill the Gays Bill. Prevedeva infatti la pena di morte per le persone omosessuali, recidive, sieropositive o che avessero avuto un rapporto con persone dello stesso sesso di età inferiore ai 18 anni, una proposta che era stata approvata dal Parlamento il 20 dicembre 2013 e firmata il 24 febbraio 2014 dal presidente Yoweri Museveni, in una forma emendata, sostituendo cioè la pena di morte con quella della prigione a vita, una legge poi dichiarata non valida dalla Corte Costituzionale il 1 agosto 2014 perché approvata senza il quorum necessario. L'omosessualità non è naturale per gli ugandesi, ma c'è stato un massiccio reclutamento da parte di persone omosessuali nelle scuole, in particolare tra i giovani, dove stiamo promuovendo la falsità secondo la quale le persone nascerebbero in quel modo, dice il ministro dell'etica e dell'integrità Simon Locodo alla Reuters. La nostra attuale legge penale è limitata, criminalizza solo l'atto. Vogliamo chiarire che chiunque sia anche coinvolto nella promozione e nel reclutamento deve essere criminalizzato. Coloro che compiono atti gravi saranno condannati a morte. Locodo ha affermato che il disegno di legge che è sostenuto dal presidente Yoweri Museveni verrà ripresentato in Parlamento nelle prossime settimane e dovrebbe essere votato entro la fine dell'anno. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie. Sono Barbara Schiavulli e questa è Radio Bullets. Senza calcio, infatti il campionato di Serie A era fermo per consentire alla nazionale di svolgere le sue partite per la qualificazione agli europei del 2020, qualificazione che è arrivata con la vittoria di sabato contro la Grecia, una nazionale che venerdì nella rifinitura aveva ospitato anche come guest star Sinisa Mihajlovic, che stava in qualche giorno a casa dopo la dimissione dall'ospedale. Un Mihajlovic che secondo alcuni potrebbe già essere in panchina sabato sera a Torino contro la Juventus. Bologna che dovrà fare un attimo i conti con i ritorni della nazionale con qualche giocatore acciaccato, Tomiyasu e Medel che non sarebbe comunque stato dotato della partita in virtù della squalifica che arriverà vista l'espulsione di domenica contro Lazio. Bologna che auguriamoci non vada come è accaduto nelle ultime stagioni, nelle trasferte all'Allianz Arena di Torino, cioè andando là come vittima sacrificale, provando ad andare a vincere una partita contro una Juve che anch'essa avrà i problemi di ritorno dalla nazionale, una Juventus che ha certamente dato una prova di forza importante andando a vincere il big match della domenica scorsa contro l'Inter, una squadra che ha certamente un pochino più di difficoltà degli altri anni quando viene aggredita, ma anche la possibilità di giocare più la palla. Vediamo, quello che a me piacerebbe vedere è una squadra non votata al sacrificio, che arrivi in Piemonte con la testa bassa. Vediamo se con l'amichevole di sabato ha fatto vedere qualche novità, se ci sarà a centrocampo, come verrà sostituito Ito Medel, e se si giocherà con un falso 9 come Palacio, invece si proverà a giocare con la punta, una fra destro e in e Ropero Santander. Un Bologna che questa settimana ha festeggiato con la partita delle leggende mercoledì sera i suoi 110 anni, sicuramente una bella manifestazione che ha consentito di vedere anche tante vecchie glorie, tra cui ognuno di noi aveva il proprio pallino presente. Andando al basket, la Virtus sbanca Pesaro per 77-94 e con questa vittoria è da sola in testa alla classifica, vista la sconfitta interna di Sassari, che ha perso in casa contro Trieste. Una Virtus che mette quasi subito le mani sulla partita, cercando di fare della fisicità e dell'aggressione, soprattutto sotto le plance, il suo marchio di fabbrica, con soprattutto all'inizio, nei primi due quarti, sugli scodi Gamble e quel giocatore che in settimana è stato un po' discusso come Gaines, che invece viene subito messo in ritmo con due triple consecutive. Virtus poi che ha buone cose anche dalla panchina con Hunter. Alla fine i tabellini sono Gaines che ne fa 19, Gamble 18, Hunter 14, Wims 13. Virtus che non ha tecnicamente sempre sotto controllo la gara, che ha buone cose da un Paiola che è in progressione soprattutto nella convenzione nel tirare, perché il giocatore l'anno scorso tirava poco e di conseguenza faceva anche poco canestro. Questa sera un po' nel finale si è un po' perso con qualche pallone buttato al vento, come ha sottolineato coach Djordjevic alla fine della partita. Una supremazia in classifica in solitario che mancava alla Virtus da 13 anni. C'è anche da dire che la Virtus in questo momento in trasferta ha incontrato allo stato attuale le due squadre più deboli del campionato, ovvero Pistoia e Pesaro. Settimana molto molto delicata per la Virtus, perché martedì arriva Andorra in Coppa, una squadra, quella spagnola, molto molto ostica, con giocatori anche di una certa esperienza in campionato europeo. Poi sabato anticipo contro Varese, squadre di Attilio Caglia sono quelle sempre molto molto complicate da affrontare. Ci saranno appunto tre partite in neanche 7 giorni, quindi bisognerà vedere la capacità di rotazione degli uomini, come era facile da prevedere. Teodoro ci ha fatto una partita un po' meno brillante rispetto a quella di Venezia, ma dicevamo la gara contro Varese è sicuramente una cartina di tornasole per vedere una squadra e un allenatore che verranno qui per mettere il classico granello di sabbia nell'ingranaggio di coach Djordjevic, e qui la Virtus dovrà essere molto brava a farsi trovare pronta e a giustificare una supremazia in classifica che visto che potrebbe essere soltanto prematura, ma per far vedere appunto di mantenere quella supremazia a rimbalzo che sta venendo fuori in questi ultimi tempi, e riuscire anche a gestire momenti di difficoltà con squadre di un tasso soprattutto tecnico e atletico più importante. Stiamo a vedere. Una bella vittoria quella della Fortitudo, che vince 7-7-6-9, vince una partita molto delicata che la vede spesso sotto nel punteggio, anche di 13 lunghezze sotto, ma con una partita anche qui abbastanza delicata, perché veniva dopo la scoppola di Varese, dopo una settimana turbolenta per alcune notizie che si sono poi rivelate non veritiere di problematiche all'interno del spogliatoio. Una gara contro Treviso, che è sempre un derby, che ha visto appunto gli uomini di coach Martino all'inizio subire un po' l'aggressività di Treviso e non trovare, soprattutto in cabina di regia, i giusti ritmi. Fontinelli mai in partita esce anche per 5 falli, e qui chi ha saputo dare un pochino più di verve, di atletismo, vale a dire Robertson e Daniel, che non a caso alla fine saranno due top scorer, Robertson con 23, Daniel con 17, seguiti da Aradore 13. Una Fortitudo che ha vissuto abbastanza di sprazzi ed ha capitalizzato la non capacità di Treviso di ammassare la partita quando doveva. Non è, Treviso ha provato, ma senza mai riuscirci, a gestire i ritmi nei momenti delicati, e se non hai il pugno del KO al Paladozza, l'ambiente e la squadra con giocatori di strisce come possono essere Aradori, Mancinelli, lo stesso Cinciarini nel finale, quando appunto consente a queste squadre come quella di coach Martino di rimanere con un filo di benzina nel serbatoio, e a rischi. Alla fine probabilmente chi ha speso di più senza capitalizzare sono stati i trevigiani, e nel finale, grazie appunto a alcune triple di Robertson e alcuni canestri importanti anche di Cinciarini, la Fortitudo porta a casa due punti molto molto importanti, che la fanno stare nel gruppone a 6 punti, paradossalmente davanti anche a Milano, che ieri ha perso la sua seconda partita casalinga con Brindisi. Una vittoria molto importante che consente agli uomini bianco-blu di andare domenica in quel di Roma, una Roma squadra molto strana che ieri sabato sera ha spancato Pistoia, squadra che ha problemi con uno degli americani che probabilmente verrà tagliato, si gioca contro una vecchia volpe come coach Bucchi, che sicuramente cercherà di metterle anche lui un granello di sabbia nel ingranaggio della Fortitudo, una Fortitudo che al momento pare subire abbastanza la fisicità quando gli vengono messe le mani addosso e quando non riesce a giocare a determinati ritmi. Qui ora dovrà essere bravo coach Martino a riuscire a trovare adeguamenti e riuscire a coinvolgere maggiormente tutti i suoi uomini di tutto quanto la sua panchina. Però una vittoria del genere fa tanto tanto morale, oltre che fare classifica. Per questa settimana è dunque tutto, buona giornata. Mama said. said. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. 9:35 minuti di questo 14 ottobre, ripresa della settimana lunedì, con il mondo ancora impotente o complice dell'avanzata turca in territorio siriano curdo, e c'è una vittima tra le tante che in qualche modo apre la nostra rassegna stampa con Stasiempre. Parliamo di Evrin Khalaf, che il Corriere così descrive: paladina dei diritti umani, violentata e lapidata per la strada, uccisa dai jihadisti liberati e foraggiati dal fascista Erdogan. L'attivista uccisa in un agguato sotto accusa le milizie pro Ankara, questo famoso esercito che raccoglie tutti i rifugio peccatorum del fascismo siriano al seguito delle truppe di terra dopo i bombardamenti via cielo della Turchia. Ankara bombardi reporter, i curdi cercano Siria e Russia. L'elemento politico che, col tradimento pesantissimo dell'America che ritira definitivamente i suoi soldati lasciando via libera come concordato ad Erdogan, allora i curdi cercano un'altra sponda, cercano una sponda in Putin, e questo potrebbe suonare una campanella d'allarme per la Casa Bianca. C'è l'imbarazzo del Pentagono per queste giravolte da Giuda Iscariota di Trump. E allora il generale americano, ex capo delle forze speciali, lui è Joseph Votel, fino a marzo 2019 comandante del comando centrale ex capo delle forze speciali USA, che ha parlato con il Middle East Institute dei guerriglieri curdi che hanno combattuto fianco a fianco con i berretti verdi nordamericani. Lui dice, più o meno ipocritamente, più o meno con le lacrime di coccodrillo: è un'amicizia distrutta, il loro dolore in queste ore è anche il nostro dolore. No, il dolore è tutto dei curdi, il dolore è di tutti i democratici, e i berretti verdi non c'entrano assolutamente nulla, almeno per quanto è il mio povero giudizio. Anche la bombardi report, dicevamo, col fatto quotidiano, morti anche due giornalisti, accordi con Mosca per consentire all'esercito di Damasco di entrare ad est per respingere l'offensiva di Erdogan, avanza il sultano, bombardamenti, morti, feriti, 140.000 sfollati, potrebbero diventare 400.000. E questa mattina sul fatto che i bombardamenti di Erdogan liberano i jihadisti che tornano poi in loro pista come esercito feroce ed armato utilissimo per la causa, in questo caso turco islamista, integralista islamico. Beh, allora, dice Trump, sia l'Europa a prendersi questi prigionieri jihadisti. Questo è farle rompere i cocci e rompere i vasi, i cocci sono tutti tuoi. Ma parlavamo di Evrin Khalaf, che così viene descritta dal giornale: massacrata dai miliziani filoturchi, uccisa la paladina curda delle donne, imboscata contro Evrin Khalaf. E capiamo qual è la grande eresia di Evrin Khalaf, dei curdi, che sono multietnici, multireligiosi e danno pari diritti alle donne. E allora veniva definito una sorta di ministro degli esteri del Rojava, cioè la patria del Kurdistan siriano. Al momento della sua fondazione, avvenuta il 27 marzo 2018, il Partito per il Futuro della Siria affermò tra i suoi principi la laicità dello Stato, una Siria multidentitaria, la rinuncia alla violenza in favore di una lotta pacifica per la risoluzione delle controversie, l'eguaglianza tra uomini e donne e il rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite, in particolare la 2254, secondo cui tutte le fazioni del popolo siriano dovrebbero essere rappresentate nel processo politico, compresa la stesura di una nuova Costituzione. Ecco, questa è l'eresia insopportabile per i fascisti turchi. Le bombe di Ankara, e c'è da dire che la comunità internazionale è lenta nella presa di decisione, perché da quando Erdogan ha iniziato questo attacco sì, si sono susseguite le dichiarazioni, ma ipotesi di provare a prendere una decisione nel merito si fanno sempre per la settimana prossima, quindi nei giorni scorsi, la settimana prossima si riunisce, la settimana prossima. Nel frattempo Erdogan e i suoi sodali fanno le loro pulizie di ottobre, come dire. Paladina delle donne uccise dai filoturchi, esecuzione filmata e postata sul web, perché sì, c'è anche una sorta di messa in video e messa in pubblico di questa vicenda, di questo ammazzamento, perché, come dire, ammazzarne uno per educarne 100, si potrebbe dire, chiosando il il celebre detto: bombe sui reporter stranieri nella terra di nessuno. E inizia così l'articolo di Lorenzo Bianchi: questi maiali curdi dello IPG, uccideteli all'Akbar, filmami, prendi il mio telefono e riprendimi mentre sparo con questo fucile da cecchino. L'uomo in tuta mimetica si accanisce su un corpo già riverso a terra, è uno dei due video girati dai miliziani che hanno ucciso Evrin Khalaf, segretaria del Partito del Futuro, volto e voce di primo piano delle donne curde nella Siria settentrionale. E quindi questo è una sorta di ostentazione di violenza, cattiveria e perversione violenta, appunto. Evrin, nemica di Erdogan, la paladina dei diritti, uccisa in un'imboscata. Certo, Erdogan con la scusa di sistemare le cose sta sistemando anche, sta facendo sistemare i personaggi e le personagge che lo infastidiscono in un qualche modo. Un'esecuzione contro una delle donne simbolo del popolo curdo e... E poi ci sono queste bombe contro i giornalisti, perché i giornalisti sono invece l'occhio che sta lì a guardare e magari a raccontare quello che riescono a vedere di ciò che succede. Dicevi, i curdi a questo punto traditi da tutti, proprio c'è un detto napoletano, cornuti e mazziati, perché prima si sono fatti ammazzare per la causa occidentale di controllare e ridurre fino ad annientare l'ISIS, ora non servono più, quindi vengono buttati via come un calzino sporco. Putin diventa arbitro, soltanto la Russia può fermare Erdogan. L'isolamento di Ankara in Europa favorisce ancora di più il ruolo di Mosca. Il capo del Cremlino tenta di colmare il vuoto creato dal ritiro americano. La prima mossa a favorire un'intesa tra Damasco e la resistenza curda. E vediamo che cosa riesce a fare la Russia in questo caso. Intanto Erdogan, oltretutto, oltre a pensare agli affari suoi in sede, lancia strali e minacce a più non posso, e quindi la stampa ci dà per esempio una parte delle sue dichiarazioni di questi giorni: chi pensa di poter fermare la Turchia con minacce d'embargo di armi si sbaglia di grosso. E ancora: ho chiesto a Merkel di dirmi da che parte stanno, dal nostro, alleati di NATO o da quello dei terroristi. Diciamo che potremmo chiedere la stessa cosa a lui: da che parte sta, se dalla parte dei terroristi o dalla parte dell'intesa NATO. È assolutamente come dire, Erdogan ha un problema, sta coi terroristi della NATO. Ah, ecco, potrebbe essere questa la come dire, la teoria più corretta e l'analisi più corretta. I miliziani dell'ISIS liberi di colpire, trucidata l'attivista dei diritti umani. Sì, perché oltretutto attaccando i curdi adesso nelle zone che erano controllate da loro ci sono tutta una serie di campi e di luoghi dove venivano tenuti prigionieri esponenti dell'ISIS, sia locali che foreign fighters, eccetera eccetera, e attaccando chi li sta tenendo sotto controllo, capite bene che questi poi hanno accesso libero a fare e disfare come meglio credono. Era divertente, se non fosse tragica, le dichiarazioni europee dei giorni scorsi. No, ok, però non rimandateci foreign fighters, cioè la preoccupazione occidentale era quella di non ritrovarsi in casa o sulla via di casa i foreign fighters, e questo, ripeto, era divertente se non fosse grave la situazione e agghiacciante. E allora Evrin Khalaf, che diventa simbolo delle sofferenze, dell'ingiustizia e dell'ignominia storica di questa guerra, noi dedichiamo il primo brano musicale. lassù, sulle montagne, sventola bandiera nera. È morto un partigiano nel far la guerra. È morto un partigiano morto nel far la guerra. La meglio gioventù che finisce sottoterra. Prova un altino caduto al freddo in Russia, morto con il cervino. Nemici traditori, un altro compagno è morto, ma un altro partigiano oggi è risorto. Ma prima di morire tre volte ha pregato che Dio maledica il nemico alle tradito, lasciandoci sul dono e poi è fuggito. La sua dura battaglia, tedeschi e fascisti, fuori di casa, tedeschi e fascisti, per sempre fuori di casa. Ridiamo a tutta forza, pietà è morta. Ridiamo a tutta forza, pietà è morta. E per gli amanti della geopolitica sarà interessante vedere come si comporta il Cremlino e Putin, da una parte in questo asse pur Russia, Turchia, Iran, e dall'altra però alleato storico della Siria, che scenderà col suo esercito a difendere la Siria del nord, la Siria in questo caso del sud, scusate. Questo è il sarà un è un rompicapo questo, che riporta ancora il Medio Oriente come un dedalo di vicende politiche, economiche, sociali assolutamente inestricabile. Comunque, Parleremo di questo, anche delle richieste di bloccare il traffico d'armi con la Turchia. Si chiama export, ma è traffico d'armi. Parleremo anche della kermesse di 5 Stelle. Veniamo invece al governo italiano, che viene così dipinto dal Corriere della Sera: scontro su tasse e pensioni. I renziani dicono abolire quota 100. Naturalmente i renziani sono in cerca di assoluta visibilità, anche perché sabato hanno la loro Leopolda, e quindi non fa vedere che sono bravini ma ribelli. E allora questa cosa, però, dal Destro al Tempo, che dà la proposta dei renziani di Italia Viva come cosa fatta per tutto il governo: blitz su quota 100, torna la Fornero. Questa è la sicurezza del centrodestra, che utilizza appunto le uscite degli uomini di Renzi. Intervista a Berlusconi in piazza contro la sinistra, che vuole tasse e manette. Naturalmente non sono particolarmente, almeno per il momento, particolarmente nuove tasse all'orizzonte. C'è una restrizione giudiziaria su chi evade le tasse, e allora chi vuole le tasse vuol dire libertà di evadere. Questa è la vecchia e attuale idea di Berlusconi del rapporto tra fisco e i ricchi. Il Cavaliere: vinciamo le regionali e il governo cadrà. Manette agli evasori, questo è il Fatto Quotidiano che c'ha alla fissa delle manette. Manette agli evasori, Di Maio presso il PD e il disegno di legge fisco slitta. I 5 Stelle si impuntano oggi in Consiglio dei Ministri, sono un piano da inviare alla Unione Europea. Il capo politico chiude la festa 5 Stelle parlando a Napoli, perché intendono a Roma, dove continua la trattativa sulla manovra, perché mancano 5 miliardi alla chiusura dei conti, almeno per il momento. Siamo qui per fare le cose, se non ci riusciamo meglio il voto anche scorrosatellum. E quindi vediamo che un colpo solo Di Maio azzera tutti i contrappesi e gli antidoti garantiti agli alleati di governo per avere il taglio dei parlamentari. A questo punto non gliene frega più niente. Questa è una parola così data al vento. Grillo: come per tutte le invenzioni, perché ci capiscono servono 10 o 20 anni, sempre che gli italiani non tolgano la spina prima. E sul versante poi invece della destra abbiamo Salvini seduce Silvio secondo Libero, tutti insieme l'appuntamento in quelli di destra il 19, credo sabato prossimo se non ricordo male, Berlusconi potrebbe dedicargli: ma non l'abbiamo fatto, vengo anch'io, no tu no, perché è malamente tollerato nella nuova enclave dell'estrema destra, tant'è che anche il giornale Lega e Fratelli d'Italia si scontendono la regia della piazza, cioè Berlusconi è veramente l'ospite, quello che fa tappezzeria. Meloni contro i clown grillini, Salvini: non rifondiamo il vecchio centrodestra, andiamo oltre. E sì, manovra e caccia ai 5 miliardi, dal fisco all'addio al super ticket, il tesoro stringe sulle coperture. Adesso ovviamente cominciano i vari schemini che propongono tutte le ipotesi, anche se c'è da dire che alle volte queste ipotesi sono parole tra persone che si ritrovano intorno a un tavolo così per ragionare ad alta voce, trapelano, finiscono alla stampa e diventano vogliono fare questo, vogliono fare quest'altro. Quindi è molto delicata in questi momenti la questione, perché non sempre quello che viene pubblicato sui giornali poi è effettivamente quello che è la via a cui si sta pensando. Comunque oggi Repubblica ci fa i primi schemini: cuneo fiscale, lavoratori imprenditori, salgono a 3 miliardi le risorse nel 2020 e 5,3 miliardi per il 2021. Il PD vorrebbe intervenire dal lato del lavoratore aumentando le buste paga, ad esempio con il bonus vacanze 240 euro una tantum erogate a luglio e 500 nel 2021 a quanti già prendono i famosi 80 euro. Un pannicello caldo per Renzi, mentre Di Maio vuole un taglio dal lato imprese sui contributi per coprire l'introduzione del salario minimo. Ticket sanitari verso l'abolizione, quindi abolire il super ticket regionale da 10 euro che si somma ai ticket per le visite specialistiche e le prestazioni di diagnostica, è l'obiettivo inserito nel programma di governo. Fin qui il ministro di Leo Roberto Speranza era stato prudente, superarlo in modo progressivo. Ieri l'accelerazione del capo dei 5 Stelle a inizio 2020 o al massimo metà del 2020 deve sparire per le famiglie. La selettività delle aliquote IVA è il cuore del business della nuova alleanza di governo, scongiurare l'aumento e le accise sui carburanti per 23,1 miliardi dal 1 gennaio 2020. Italia Viva e Movimento 5 Stelle pretendono che la clausola sia rimossa senza se e senza ma. Il PD invece ragiona di rimodulazione, ovvero di aumenti selettivi di IVA solo su alcuni beni di lusso, come i tartufi, oggi colpiti al 10%. Al 5 se freschi, oppure contro pannolini e assorbenti tassati al 22 con l'aliquota ordinaria. E poi la lite ambientale, doveva essere una manovra verde incentrata sul Green New Deal, e invece si litiga sul taglio ai sussidi ambientalmente dannosi inserito nel decreto clima, poi saltato e ora sospeso. La ministra renziana Teresa Bellanova dice no a nuovi balzelli sul gasolio agricolo. Italia Viva, il suo partito, non vuole più tasse per nessuno. Di Maio chiede invece più tasse per le multinazionali che inquinano. E poi appunto il tintinnar di manette per quanto riguarda le soglie dell'evasione. Per quanto riguarda l'evasione, il discorso delle soglie dei contanti, tra l'altro ci dice Repubblica che Di Maio sta facendo marcia indietro sul discorso del, appunto, del limite dei contanti e comincia a serpeggiare una certa irritazione del Premier Conte per la freddezza del capo del Movimento 5 Stelle. È decisivo tracciare i pagamenti, ma il ministro tira dritto, ovviamente il ministro Di Maio. Non dobbiamo vessare commercianti e artigiani, ma i grandi evasori. Possiamo colpire i grandi evasori in due modi: il primo è la galera, il secondo è la confisca. E ancora, per chi emette fatture false non bastano le multe, così preferirà sempre evadere. E a Napoli ne ha parlato anche con Beppe Grillo, ormai completamente proiettato nell'alleanza organica con i Dem. Un conto è Renzi, un conto era D'Alema, ha confidato il comico, ma in questo PD c'è tanta gente per bene con cui poter lavorare. Ci sono tanti giovani del PD, entusiasti elettori, con cui dobbiamo saper parlare. Questo è il messaggio che sta continuando a mandare Beppe Grillo ai suoi. Veniamo invece agli aspetti appunto di disgregazione della coesione sociale, che diventa anche frammentazione politica. Il caso su Tirol, cancellato l'Alto Adige, così a Bolzano perde la storia. Alto Adige o provincia di Bolzano? Sembrerebbe una questione di lana caprina, dice il giornale con Giordano Bruno Guerri, se non sapesse che geografia e storia sono strettamente intrecciate e interdipendenti, anzi che spesso la geografia è madre della storia. Facciamo l'esempio più macroscopico: a costo di urtare i sostenitori della superiorità della razza bianca, uno dei promotivi per cui l'Eurasia ha progredito più dell'Africa è che l'Eurasia si sviluppa da ovest a est, più o meno questi ritmi, climi e senza grandi barriere naturali. Beh, questa è una cosa un po', un pindarico di Bruno Guerri, che però poi parla dell'Arabia per la decisione del Consiglio Provinciale di Bolzano che abolisce la denominazione in italiano. E quindi torna la vecchia ferita, che ancora da quando il fascismo costrinse tutto il Sud Tirolo a italianizzare, e anche il Friuli a italianizzare tutto a partire dai nomi, sì, perseguendo la minoranza tedesca e quella slava, che poi ha trovato gli Schutzen nel dopoguerra, in particolare alla fine anni 60, in una rivolta anche armata con suon di bombe, e che comunque ha mantenuto una sorta di tensione all'interno. Oggi, in questo clima di disgregazione, torna fuori tutta questa, scusatemi, merda. Conservare il nome tedesco, l'approccio burocratico, un'occasione persa. Fratelli d'Italia vota contro, Lega e PD si astengono. Perché succede questo? Perché naturalmente si crea anche il contraccolpo, il rinculo politico, per cui di fronte a un oltranzismo tra virgolette tedesco o austriaco trova linfa anche Siamo Italiani della signora Meloni, che è sempre in cerca di guerreggiare con qualcuno. Anche perché in Val Venosta la libertà sudtirolese, leggo dal Fatto Quotidiano con Ferruccio Sansa, via i meridionali della guida degli autobus non sanno il tedesco, presenta un'interrogazione in consiglio provinciale a Bolzano contro gli autisti del sud. Naturalmente è una cosa assolutamente anticostituzionale da sé. La motivazione non è razzismo, sai, non è mai razzismo, no? Ma parlano sull'italiano, perché in Val d'Aosta l'italiano lo sanno. Questo sembra, no, la ridicolaggine di questa cosa, ma in realtà appunto è mettere l'uno contro gli altri. Prima i bolzanini, dicono a Bolzano. Prima gli italiani dicono la Meloni, prima gli europei dicono altri, prima gli eurasiatici, prima quelli, prima, poi prima gli ordini terrestri dei venusiani, non lo so. Altro tema importante, che è un'occasione per questo governo, volendola cogliere, il tempo della cannabis, ricordando non solo Skanking, l'altra nostra trasmissione del mercoledì pomeriggio, primo pomeriggio. Qui leggo invece Paolo Di Maglio: canapa legale, ora mai più proseguono i sequestri light. Con la Lega l'opposizione, gli shop del Fiore Verde sperano nel nuovo governo, e quindi la domanda è: c'è vita dopo Salvini? Il nuovo governo 5 Stelle PD, ma c'è il dubbio del tradimento. Qui tradimento è la parola d'ordine di oggi, eh? In grande e in piccolo c'è chi tradisce chi. I grillini vogliono vietare la vendita delle infiorescenze, dice Luca Marro di Easy La Joint. Questo è quanto, e quindi sempre questa indeterminatezza tremenda per gli operatori del settore, operatori economici del settore. Vengo invece alla pagina della violenza alle donne, perché non fa più neanche notizia, quindi solo un trafiletto questa news che arriva da Varese. Quindicenne sfregiata in pieno centro. Una ragazzina di 15 anni viene aggredita e sfregiata al volto con un coltello da un uomo senza apparente motivo intorno alla mezzanotte di sabato nel centro di Varese. L'ha assaltato lei e una sua amica con un coltello, questo signore maturo, a una fermata dell'autobus. L'amica è fortunatamente riuscita a scappare, lei no, è rimasta ferita al braccio e sfregiata. Questo è sicuramente, l'uomo ha dei problemi psichici non da poco, ma sicuramente questi problemi psichici sono foraggiati da un clima di veleno, di odio contro le donne che qualcuno sta seminando nel paese. E allora, come terapia, andiamo all'Università di Bologna, dove è nata la consultoria Mala Consiglia, uno spazio autogestito contro la violenza di genere. Nata sulla scia dei consultori femministi degli anni 70, il nuovo spazio vuole ripoliticizzare i consultori e contrastare il fenomeno della violenza di genere anche all'interno del mondo accademico. Ne abbiamo parlato con Noemi, che è uno degli organizzatori, e sentiamo le sue parole. La consultoria è un progetto che nasce ormai da circa 2 anni all'interno del collettivo La Maleducation, e prende spunto un po' da quelle che sono le lotte delle donne che hanno costituito poi i consultori negli anni 70 e che oggi vivono una depolitizzazione di quello che invece era il progetto iniziale. Come tanti altri collettivi in tutta Europa, in realtà si è provato a ricreare quelle esperienze politiche forti di scambio di pratiche, bisogni e di ragionamenti a partire dal proprio corpo, che erano una volta i consultori e che oggi sono le consultorie, come la consultoria Mala Consiglia. Avrà una funzione specifica per contrastare la violenza di genere dentro e fuori l'università? Certo, esatto. Chiaramente stanno a partire, come ci insegna il femminismo, a partire da noi stessi. Noi siamo studentesse e studenti che compongono questo collettivo, lo vogliamo insomma a partire da quelle che sono le nostre aule, i nostri corridoi dell'università, per mettere in rete una serie di servizi sociosanitari che già esistono sul territorio e una serie di esperienze di associazioni e collettivi che sono fiorenti all'interno del panorama politico bolognese e che ad oggi, spesso e volentieri, soprattutto per una studentessa o uno studente fuori sede, non sono così riconoscibili, non sono così avvicinabili. Quindi il nostro ruolo è innanzitutto di fare rete attraverso una serie di esperienze che già esistono, ma anche provare a creare una vera e propria comunità politica che sia di mutuo aiuto, di ascolto e anche di vertenza qualora ci sia necessità di lavorare all'interno della nostra università. L'inaugurazione di questo spazio è stata accompagnata da una prima inchiesta proprio sulle molestie e la violenza di genere all'interno dell'università. Che cosa è emerso? L'idea appunto di consultare a parte un po' anche da quello che è stata l'esperienza personale all'interno dei propri percorsi di studio, delle studentesse e degli studenti che compongono il collettivo, in cui abbiamo deciso quindi di costituire poi una vera e propria inchiesta formalizzata con una serie di moduli Google da far girare all'interno di tutte le facoltà dell'Università del Bologna, e abbiamo notato di quanto in realtà il problema sia evidente e presente in tutte le facoltà, nonostante l'Università di Bologna sia evidentemente un esempio di uno spazio sicuramente più safe rispetto a tante altre università italiane. Abbiamo visto che anche nella prestigiosissima Università di Bologna esistono una serie di contraddizioni fortissime. Abbiamo visto come la maggior parte delle intervistate e degli intervistati sente la necessità di uno spazio dove poter esprimere una serie di necessità e di bisogni. La maggior parte degli studenti ha avuto episodi all'interno delle proprie aule universitarie di discriminazioni e o di commenti e battute sessiste all'interno del proprio orario di lezione, e addirittura abbiamo notato come, sebbene proprio perché non esiste ad oggi un servizio corso specifico dell'Università di Bologna rivolto agli studenti, ma soltanto ai dipendenti, di come ci siano tanti casi di proprie, vere e proprie molestie e violenze all'interno dell'Università di Bologna, e che anzi proprio per questo abbiamo deciso di dare ascolto alle tante testimonianze, ma anche e soprattutto di provare a cambiare quello che è anche il sistema dell'Università di Bologna, di affrontare una serie di questioni con la nuova proposta a cui stiamo lavorando, del nuovo regolamento contro le molestie per le studentesse e gli studenti dell'Università di Bologna. Non l'abbiamo ancora detto, però appunto questo è arrivato il momento di dirlo: dove si trova e appunto quali orari farà? Allora, il nuovo spazio, la deriva che è aperto, in cui si trova appunto la consultoria studentesca autogestita, è in via Filippo Re 2/2, quindi nei giardini universitari di via Filippo Re, e avrà innanzitutto uno sportello di accoglienza nel martedì dalle 12 alle 14, a partire dalla settimana prossima riapre appunto lo sportello, e una serie di attività che potete seguire dalla pagina della Maleducazione, dove ci sono tutti gli appuntamenti sia della consultoria che del collettivo. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. E andiamo a Napoli con la conclusione della 3 giorni di kermesse, di festeggiamenti per i 10 anni del movimento 5 Stelle a Napoli. Intanto, partendo dalla notizia con cui abbiamo aperto, ovvero quello che sta succedendo in Turchia, direte voi cosa c'entra? Perché Di Maio, o meglio, il governo italiano sta diventando cauto sul discorso armi alla Turchia. Armi alla Turchia, governo cauto, stop solo alle nuove licenze. L'Italia aspetta il vertice dei ministri degli esteri di oggi per prendere una posizione definitiva sulle forniture. Da Palazzo Chigi si frena su un blocco totale e filtra: serve un'intesa nella UE, inutili atti unilaterali. E quindi ovviamente la lobby dell'arma sicuramente sta lavorando ai fianchi, e non solo, di sopra e di sotto, i politici di turno. Le commesse al nostro paese sono già diminuite drasticamente dal 2018, sicuramente. Conte ha sentito più volte Guerrini e Di Maio, ma la nota su Ankara è stata bloccata. Quindi doveva partire questa nota, e dal palco che chiude la festa del Movimento 5 Stelle a Napoli, il ministro degli esteri chiede un applauso per Evrin Khalaf, l'attivista del Partito del Futuro Siriano. Quindi la parte, diciamo, commemorazione è stata fatta. È un massacro inaccettabile, non vengano a dirci che lo fanno per combattere il terrorismo, tutte le guerre di questi anni lo hanno fatto aumentare. Fermateli, urla un attivista in fondo al prato. Di Maio promette, annuncia che oggi a Lussemburgo, prima del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione, avrà un bilaterale col suo omologo francese Jean-Yves Le Drian per chiedere uno stop europeo alla vendita di armi alla Turchia. Saremo categorici, giura il capo della Farnesina, ma c'è una cosa che il governo italiano poteva far sin da ora e non ha fatto: un atto per interrompere subito le nuove autorizzazioni di esportazioni di armi verso il paese che Recep Erdogan ha scagliato contro una minoranza etnica per annientarla, liberando al contempo centinaia di miliziani dell'ISIS che i curdi avevano catturato. Sì, nel frattempo un flash agenzia dice: truppe Damasco vicino al confine turco. Le prime truppe di Damasco sono entrate a Taml Tamar, cittadina siriana ad una 20 di chilometri dal confine turco, per contrastare l'aggressione della Turchia. Lo afferma agenzia di stampa siriana Sana'a senza fornire altre precisazioni. Sana'a dice che però la popolazione locale ha dato il benvenuto ai soldati, ci mancherebbe altro, altrimenti finiva male, schierati dal governo siriano in seguito all'inedito accordo di ieri con le milizie curde per contrastare l'offensiva turca. Quindi non è più neanche una guerra, come se non fosse sufficiente, contro uno Stato non Stato, ormai guerra tra Stati, e quindi la Santa Barbara sta davvero deflagrando, non rischia di deflagrare, sta deflagrando in questo momento. Allora, in tutto questo troviamo Conte vuole la moratoria dell'Unione Europea, ma il PD incalza subito lo stop alla vendita delle armi. Ricordiamo che la Germania ha dichiarato lo stop delle armi alla Turchia, ma la Germania fornisce armi per la marina militare turca. e quindi lo stop per le armi impegnate nella guerra col Kurdistan non c'entra con le vendite della Germania, quindi è un fatto simbolico molto importante, ma la concretezza molto meno. Certo che se davvero si tagliassero i fornimenti agli arsenali di Erdogan, a partire dagli americani evidentemente, Italia compresa, però sarebbe diverso lo scenario. Comunque Di Maio chiederò a Bruxelles, anche Renzi e Leo, per il blocco immediato delle armi. Ma questo è quanto riguarda. Poi c'è tutto il problema della, che viene segnalato con ampio risalto dal giornale, tornando a Napoli, tornando ai 5 Stelle, dei dissenso su Di Maio, perché il giornale ci conta, la destra anche, che si formi questo gruppo di paragone, tanto per usare in termini di un 5 Stelle di destra, per fare poi cadere il governo, spostando questi voti al Senato, in particolare dai giallorossi cosiddetti, o giallorosa, al centrodestra senza virgolette, più destra che centro, siamo sinceri. Comunque raduno 5 Stelle da incubo, questo è il quadro da Pasquale Napolitano dal giornale, quindi evidentemente interessato. 2000 firme anti Di Maio, insulti ai giornalisti, Grillo sberfessa il leader nel mirino dei dissidenti, ha gritto l'inviato delle Iene in locale di Napoli per calmare le acque, il capo politico organizza una festa con gli eletti. Devo dire che se c'era un esperto il bunga bunga per tranquillizzare gli eletti non era certo i 5 Stelle, ma insomma qui è tra luce e vino, secondo il giornale, che fa di tutto un'erba un fascio. Vengo per avvicinarmi invece, se non abbiamo ancora da parlare di Napoli, hai qualcosa, di la verità. Sì, no, nel senso che ci sono tutta una serie di dichiarazioni, o meglio, di pourparler raccattati tra i viali dell'esposizione di Napoli, che in realtà poi vengono assunte a titolone, poi vediamo nei prossimi giorni che magari vengono smentite, e quindi però cioè, sta funzionando così. Uno magari in un pourparler, in un momento informale, dice una cosa, sul giornale viene pubblicato: Alfredo Pasquali vuole fare questa riforma. Alfredo Pasquali il giorno dopo dice: no, guardate che io non ho nessuna intenzione di fare questa cosa qui. E il giorno dopo ancora la testata non è che dice dobbiamo fare una smentita, una rettifica, dice marcia indietro di Alfredo Pasquali, ed è tutto così. Quindi anche sulla kermesse di Napoli c'è del vero qua e là, e c'è del marcio qua e là pure, e quindi è difficile districarsi in questo momento in ciò che è realmente accaduto, ciò che è realmente nei pensieri politici degli esponenti dei vari partiti, e soprattutto dei 5 Stelle in questo caso, visto che la kermesse era organizzata da loro, e quello che invece è la realtà. Grillo e Fico rilanciano l'alleanza PD, Di Maio non molla, solo patti civici. E poi appunto addirittura la stampa ci viene a dire che Di Maio strizza l'occhio a Salvini e gela il PD. Per votare non serve la legge elettorale nuova. Anche questo devo dire che è abbastanza pretestuoso come titolo, alla pari del giornale, così a occhio, Alfredo. Ma che ci sia una battaglia sui giornali, lo racconta in questa vicenda di un guaio familiare, ovvero sia papà De Benedetti contro i figli De Benedetti, perché è la contesa di Repubblica. Per chi gestisce il giornale, quello che è il famoso giornale in leasing, sta sempre con delle linee politiche abbastanza curiose. Devo dire che dal tempo di Prodi in avanti non c'è mai preso la Repubblica nelle sue tattiche e strategie. Comunque il caso è segnalato chiaramente di teoria politica dal giornale, che giubila e gode come un matto vedere i guai nei gruppi altrui. De Benedetti rivuole i giornali, ma la famiglia non glieli vende. Dall'ingegnere un'offerta per il 29,9% di Gedi ci rifiuta, manifestamente ricevibile e inadeguata, anche perché questa offerta chiedeva di fatto il giubilamento dei figli nel CDA di Benedetti. Insomma, i soldi diciamo che non fanno bene alla famiglia, sembrerebbe da dire. Comunque, questo è per andare verso la pagina internazionale. mi sposto nel Vaticano, perché non so mai se metto dentro in Italia o fuori. Allora, sesso, fede e sacramenti, storia di copertina, chiesa, preti sposati per non scomparire. Sarebbe l'ultimo scontro oltre il sinodo sull'Amazzonia che si registra tra la tradizionalisti e gli innovatori alla Bergoglio. Se potessero essere ordinati che a moglie e le donne rifiorirebbero la comunità cattolica, ci sono sacerdoti che gestiscono 3 o 4 parrocchie, non è possibile, perché non c'è assolutamente più personale. E sembra un sondaggio, sempre che sia vero, che metà degli italiani è favorevole ai preti sposati. Ma volevo chiederti, invece la notizia dell'Alto Adige la mettiamo negli esteri? Perché no, potevamo pensare di metterla negli esteri, visto gli sviluppi, no? Adesso siamo seri, andiamo in Polonia invece, dove Kaczynski resta il padrone della Polonia, i conservatori verso la maggioranza assoluta, rimangono delusi i moderati di Tusk, ma c'è una notizia che ci che è quella che la sinistra tiene e anzi va anche bene. Quindi in questo, diciamo, mare di conservazionismo polacco, di conservatorismo polacco, scusate, qualcosa sta succedendo. E andiamo a leggere questo articolo di Monica Perosino, da inviata a Varsavia. Anche un libro può violare il silenzio elettorale. Ieri pomeriggio nel collegio 42 di Varsavia, rappresentanti del PiS, il partito ultraconservatore che guiderà il paese, non hanno gradito la trovata di Natalia e Katarina, 27-24 anni. Le ragazze si sono presentate al seggio, ciascuna brandendo un libro di Olga Tokarczuk, la scrittrice liberale femminista che, appena insignita del premio Nobel, ha esortato i polacchi a scegliere tra democrazia e autoritarismo. E questa è una bella immagine di ciò che è avvenuto ieri. La brutta realtà è che i polacchi hanno scelto, non la democrazia. Polonia in mano ai nazionalisti, hanno la maggioranza assoluta, dice gli esteri del Corriere con Elisabetta Rosaspina. Ma in Ungheria, alle amministrative, smacco per i sovranisti, Orbán sconfitto in quel di Budapest. Succede che nelle capitali, laddove chiaramente forse maggiore e più moderna la relazione tra le persone, questi sovranisti perdono. Poi nelle campagne, in realtà, succede anche in Turchia, peraltro, perché a Istanbul ha perso Erdogan, poi in realtà nella profonda Turchia domina. Ma sulla Polonia il Corriere parla del futuro nero di Tokarczuk, che la Polonia c'ha un è colpevole, ha più consonanti che vocali, quindi è illeggibile i suoi nomi. Comunque, per il mio paese un passo oltre i confini della democrazia. In realtà parla del Nobel Olga Tokarczuk, quella dei libri femministi di qui sopra, e gli appelli antigoverno che i polacchi non hanno ascoltato. E allora l'intervista va a Konstantin Gelbert, questo personaggio di scrittore terrorista di Gazeta Wyborcza, anche qui è il festival delle consonanti. Kaczynski è il potere, i liberali non capiscono il suo genio populista, questa è l'affermazione. Ma i liberali non capiscono molte cose, anzi purtroppo le capiscono, magari in ritardo, ma le hanno capite. L'ombra nera sull'Europa, il dossier arriva dal Fatto Quotidiano. L'Europol rivela l'ultradestra ruola da soldati e poliziotti. L'altro pericolo, secondo il report riservato dopo l'attacco alla sinagoga in Germania, i gruppi di estrema destra avvicinano i militari e agenti per rafforzare la preparazione alla lotta armata. Naturalmente si può leggere all'inverso: gli agenti militari si fanno avvicinare ai gruppi dell'estrema destra per insegnargli la lotta armata, perché altrimenti sarebbe un incontro ravvicinato impossibile. 50 tra soldati e agenti in pensione, tra i circa 200 attivisti nei risparsi in Francia nel 2016, questo in Francia. La risposta l'8 ottobre viene dai ministri diversi dell'Unione Europea per coordinarsi in contrasto di questo terrorismo. Poi si parla appunto di Bolzano, beh, ognuno ha le sue Bolzane in grande e in piccolo, perché l'Inghilterra, anzi il Regno Unito, sembra essere ormai un regno disunito, perché con gli accordi della Brexit di Boris Johnson, leggo, è in Scozia torna il vento della secessione. Venti di secessione tornano a soffiare sulla Scozia, l'incertezza della Brexit e la possibilità di una separazione senza accordo dell'Unione Europea rinnovano le spinte indipendentiste di Edimburgo, non con una proposta di legge nel Parlamento autonomo per indire un secondo referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. A rilanciare il messaggio di questi giorni sono stati gli stessi scozzesi, scesi migliaia per le strade della capitale con tanto di bandiera nazionale marchiata dalle stelle dell'Unione Europea. La battaglia per la secessione è portata avanti dal gruppo All and Under One Banner. Questo è quanto. Allora sentiamo i tamburi di guerra di quelli che non vogliono fare la fine degli ultimi dei moicani. su Repubblica troviamo jet, donazioni e miss, l'imbarazzante amicizia tra Epstein e Bill Gates ricostruiti, i numerosi incontri del fondatore di Microsoft con il finanziere suicida per le accuse di pedofilia. E ora Bill Gates ha ufficialmente, diciamo, detto: fu un errore. E questi rapporti sono andati avanti, sono stati molto stretti, hanno addirittura riguardato la creazione di un fondo filantropico che coinvolgesse la fondazione di Gates e la JP Morgan. E insomma, incontri vari che si sono susseguiti anche dopo le accuse arrivate a Epstein, ma che alla fine si sono interrotte nel 2014. E proprio nel 2014 Epstein si lamentava con un conoscente che Gates avesse smesso di parlargli. Gates e i suoi collaboratori si sono resi conto che le idee di Epstein non erano legittime, ogni contatto con lui è stato interrotto, dice appunto uno degli uomini di Bill Gates. E poi c'è la pagina del clima impazzito in Giappone, notizie di questa mattina nel flash dell'agenzia internazionale: di 42 morti e 16 dispersi, l'ultimo bilancio delle vittime della super tifone Hagibis, il più violento ad essersi abbattuto sul Giappone nell'ultimo decennio, e ci sono anche oltre 189 persone ferite. Il tifone ha interessato le aree del Giappone orientale e l'area di Tokyo, e secondo i meteorologi 9 forti precipitazioni sono previste a partire dalla serata, mentre sempre nella stessa zona il settore centrale orientale dell'arcipelago, mentre la centrale di Fukushima ha lamentato 14 fuoriuscite di materiale radioattivo in queste inondazioni. E sempre di ambiente parliamo col record della vergogna del Fatto Quotidiano, tornando in Italia, anzi nel meridione d'Italia: le acque nere del Sarno, il più inquinato d'Europa, terra dei fuochi. Il fiume scorga limpido e sotto al Vesuvio, raccoglie però rifiuti di ogni tipo tra le coltivazioni dei pomodori che vengono esportati dovunque, quindi si mangiano i pomodori della terra dei fuochi. È il quarto più sporco al mondo tra i fiumi inquinati, le fogne delle cittadine non funzionano, le case scaricano direttamente nel corso dell'acqua, così come le aziende. Ad ogni tornata elettorale qualcuno promette che sarà ripulito, ma è molto difficile, intanto passano i decenni. Le storie: morire di cancro. Virginia D'Angelo Braccianti, agricole, vivono nelle rive del fiume. Il 21 maggio scorso è stato diagnosticato un tumore al figlio, venderemo la casa per curarlo. Anonima discariche: tutti i contadini dicono di irrigare i terreni con l'acqua dei pozzi privati, raccontano a scafati. Quando le fabbriche ne lavorano il pomodoro, il corso è rosso sangue. Non si dica che nessuno vede il rosso sangue di un fiume, perché è fin troppo evidente, però occhio non vede, cuore duole, e cuore a livello oncologico. E allora parliamo di sanità, chiudendo la nostra rassegna stampa. Compie 20 anni la campagna di Medici Senza Frontiere per l'accesso ai farmaci. Ancora oggi le popolazioni più povere del pianeta non hanno accesso alle cure per molte malattie comuni, perché le case farmaceutiche trovano poco remunerativo la produzione di quella tipologia di medicine. Abbiamo parlato con Roberto Scaini, che è un operatore di Medici Senza Frontiere. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento domani, sempre alla stessa ora. Gli obiettivi sono che i farmaci non devono solo esistere, ma devono essere accessibili, altrimenti creiamo un chiaro divario, cioè il farmaco esiste ma se lo può permettere solo chi ha i soldi per poterlo comprare. E noi sappiamo benissimo che molte patologie, proprio per la specificità stessa della patologia medica, colpiscono le fasce più povere, che sono quelle che anche economicamente possono permettersi o non possono permettersi proprio per niente l'accesso ai farmaci. Quindi è essenziale che ci sia un prezzo etico del farmaco, cioè che il farmaco non sia solo un business. È chiaro che chi lo produce non può perdere, però neanche che venga fatta poi una continua speculazione per cui il farmaco diventi il garantire un profitto assurdo a dei pochi, però sulla pelle di chi veramente ha queste malattie. Ripeto, il farmaco serve, ma deve essere qualcosa che puoi anche utilizzare, altrimenti diventa del tutto inutile o diventa solo qualcosa elitario, ecco, diventa uno strumento di divisione visione e non uno strumento etico come dovrebbe essere per tutti. Ci sono anche patologie che, come dire, non colpiscono tantissime persone, quindi proprio in una logica di mercato le aziende farmaceutiche non sono interessate a farle? Questo è senz'altro vero, però dovremmo sempre considerare l'etica, che non è che perché sono interessate poche persone, fammi essere ancora più cinico, magari sono interessate tante persone, però sono proprio quelle che non hanno il potere economico, cioè non lo possono comprare e allora diventano poche, ma in realtà non sono poche, sono poche come interesse, ma sono sempre tantissimi come numero. Pensiamo oggi, non so, la tubercolosi multiresistente, farmaci spesso interessa persone che sono povere, quindi qual è l'interesse della casa farmaceutica a produrre questi farmaci? Quindi non è sempre del tutto vero che sono patologie rare, spesso sono patologie dimenticate, non sono rare per niente se vai a vedere invece dove ci sono e le persone che muoiono di queste malattie. Quindi bisogna sempre fare attenzione fra quello che è raro e quello che voglio considerare raro solo perché in realtà non rappresenta una fonte di profitto. Ecco, in questi 20 anni sono stati fatti dei passi avanti? Sono stati raggiunti degli obiettivi? Degli obiettivi ne abbiamo raggiunti, altrimenti sarebbe del tutto inutile gridare ad alta voce. Alcuni vaccini sono oggi assolutamente più accessibili. Ecco, anche il discorso dei vaccini, chiaramente il vaccino deve essere, non deve essere solo una fonte di guadagno, ma deve essere chiaramente raggiungibile da tutti. Ma per tante patologie siamo ancora lontani, basti pensare, ne ricordo una fra tutte, l'epatite C, dove i costi sono ancora stratosferici ed è una patologia tutt'altro che rara. Dimenticata sì, ma ripeto, per il discorso di prima ce la vogliamo dimenticare, ma non è assolutamente una cosa improbabile. Che ruolo hanno le istituzioni, gli stati, i governi in questo settore, in questo campo? Beh, senz'altro dovrebbero giocare il loro ruolo etico, nel senso che, guarda, a me piace sempre pensare che uno stato potrebbe fare ricerca sui farmaci, perché se è vero che ci sono delle malattie più rare, delle malattie dimenticate, perché no, uno stato potrebbe avere benissimo le sue risorse industriali di ricerca per dare il loro supporto a ricercare qualcosa di nuovo, che non necessariamente rappresenta una opportunità di guadagno, però potrebbe rappresentare un'ottima opportunità per il ruolo etico che dovrebbe avere uno Stato, un governo, che non è un'istituzione privata. Con l'istituzione privata è un discorso che potrebbe essere più difficile, ma uno Stato, lo Stato è di tutti ed è fatto di tutti e quindi dovrebbe essere il primo che risolve i problemi etici delle persone, quindi anche in termini di ricerca farmacologica e di accesso, qualora possa intervenire a favorire l'accesso a questi farmaci o quant'altro, insomma. Sempre a proposito di ruoli, invece, tutti noi cittadini ne abbiamo qualcuno in questa campagna, in questa battaglia? Assolutamente sì, perché nel momento in cui comprendiamo dov'è il problema, ci possiamo schierare dalla parte giusta del problema. Se veniamo lasciati soli, per esempio, noi a gridare, questa cosa diventa del tutto insufficiente. Cioè, se si grida in 100, la voce diventa, si sente molto meglio che se grida uno solo. Quindi il cittadino, senz'altro sensibilizzandosi per queste tematiche, può far sì che tutto questo, quello che noi denunciamo, finisca poi in un dimenticatoio, perché tanto la gente non lo sa, e quindi la sola sensibilizzazione, che è quella che noi facciamo qua oggi, senz'altro ha un ruolo fondamentale.